Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Negli ultimi tempi le cronache ci mettono spesso di fronte a episodi di violenza tra i ragazzi, a fenomeni di bullismo che soprattutto nei più deboli possono anche arrivare a reazioni estreme, perfino al suicidio. In realtà il bullismo è sempre esistito, una volta se ne parlava meno, rimaneva proprio confinato alle nostre piccole anime di adolescenti, e poi però adesso amplificato dalla rete, da Facebook, dai social, è diventato veramente quasi una piaga sociale. Ne abbiamo sentiti tanti di episodi terribili, i telegiornali ce li raccontano, fatti anche a tinte molto forti che ci fanno solo sperare da genitori che i nostri figli non si debbano mai trovare in situazioni del genere. In quei casi si dice che la violenza è fisica e psicologica, bisogna che i ragazzi riescano a governare questa violenza attraverso anche una serie di insegnamenti, e lo sport ha un ruolo decisivo. Perché vi dico questo? Perché noi oggi raccontiamo una storia di sport, ma anche di riscatto e di lealtà. La storia di un uomo che ha raggiunto le vette del pugilato mondiale, che è stato un grande campione, uno dei più grandi di tutti i tempi, molto forte ma tattico, un atleta che si è distinto per il suo fair play, per il grande rispetto che ha dimostrato nei confronti dei propri avversari, uno che ha vinto nello sport, ma ha vinto soprattutto nella vita, si è conquistato la stima di tutti. È un atleta che oggi vive con particolare attenzione questi fenomeni di bullismo. Recentemente ha fatto questo commento in proposito. Beh, io non so come sarei stato se non avessi fatto la boxe, ma certamente so come sono diventato. Ho frequentato anch'io gli amici, la scuola, i dopo scuola, e quando anche ci fossero state delle espressioni di violenza, io non mi ci sono mai messo dentro. Ho sempre considerato che quello era una di quelle cose che bisognava evitare. Il pugilato è proprio quello sport che condiziona in bene l'espressione, la volontà e il temperamento di un ragazzo, perché in palestra lui impara a controllarsi, perché se facesse baruffa sul ring le prenderebbe, e allora è controllato. Probabilmente lo avete riconosciuto, la sua voce è un po' roca, inconfondibile, l'accento ha ancora triestino, il suo stile pacato nel raccontare. Oggi abbiamo un protagonista d'eccezione, uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, uno degli atleti italiani più amati da tutti noi, Nino Benvenuti. Un pugile che si è fatto da solo, è arrivato a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 60. È stato campione del mondo nei super welter, nei medi, e ha strappato il titolo a un campione fortissimo, a una leggenda del pugilato mondiale, Emil Griffith. Stiamo parlando di uno dei più grandi in assoluto. Però vedremo, raccontando la sua storia, come Nino Benvenuti abbia altri primati oltre a quelli conquistati sui ring internazionali, primati di onestà, di correttezza, di senso dell'amicizia. Scopriremo che campione è stato e soprattutto che uomo sia tuttora. Trieste mia, che nostalgia mi golontan de ti. Gira col mondo, decima fondo. La storia di Benvenuti non è solo la leggenda di un campione e della sua straordinaria carriera, è anche un pezzo importante della storia d'Italia, un pezzo che a volte viene ingiustamente dimenticato, perché le sue vicende personali si intersecano tristemente a quelle della nostra nazione in guerra. Il racconto dei suoi anni giovanili fa riaffiorare alcune pagine della nostra storia, pagine che sarebbe stato meglio non fossero mai state scritte, perché Giovanni Benvenuti, detto Nino, nasce il 26 aprile 1938 a Isola d'Istria, oggi è territorio sloveno, ex jugoslavo, ma soprattutto città italiana a tutti gli effetti. Nell'aprile del 45 Isola d'Istria viene occupata dall'armata jugoslava di Tito, e con il memorandum di Londra, cioè l'accordo sottoscritto tra Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Jugoslavia, quei territori abitati da italiani a tutti gli effetti diventano jugoslavi, obbligando la popolazione a un drammatico esodo forzato e massiccio, una delle pagine più terribili della storia di questo paese. E questo nella migliore delle ipotesi, perché nella peggiore si poteva anche finire nelle foibe. Ascoltate Nino Benvenuti cosa racconta. In quel periodo, dopo poco, venimmo occupati dalla Jugoslavia e quindi smettemmo di essere italiani in quel momento. Molti se ne andarono subito, altri rimasero e subirono le angherie, subirono delle vessazioni, subirono quello che soltanto noi che siamo stati là possiamo dirlo. E la mia famiglia è rimasta finché ha potuto. Anche se nel 47 mio fratello più grande Eliano venne trappato da casa, incarcerato senza nessuna accusa di nulla, senza sapere dove sarebbe finito, anche perché in quel momento si leggevano di cose orribili, persone che finivano nelle foibe e altre che venivano impiccati o buttati in mare. Insomma, anche la famiglia Benvenuti vive sulla propria pelle il dramma istriano. Loro sono gente benestante, il padre ha un'attività di vendita di pesce a Trieste, hanno una bella casa, ma come avete sentito prima, il fratello più grande viene incarcerato senza motivo per 7 mesi e poi improvvisamente gli viene detto che quella casa, la loro casa, serve al comandante delle forze dell'esercito, le guardie popolari, loro devono andarsene come tanti italiani, accolti male anche in Italia, famosa una prima pagina dell'Unità dove diceva che arrivavano dei fascisti in Italia che andavano messi al bando, insomma fu una pagina, lo ripeto, terribile, e vedere i propri genitori umiliati, obbligati a abbandonare tutti i propri averi, forse è proprio da qui che parte tutta quella voglia di rivalsa, quella carica, quella rabbia che lo porteranno a battersi sui ring di tutto il mondo, a sconfiggere avversari temibilissimi e apparentemente, ma solo apparentemente, imbattibili. Papà Fernando le fu impedito da nonno Francesco a continuare a fare la boxe da giovane e evidentemente mi ha trasmesso con il sangue, geneticamente, la sua grande passione che le era rimasta. E lui mi ha sempre lasciato fare, non è stato di quei genitori, conoscendo un po' anche il mestiere, di intromettersi mai. Papà Fernando, che non si intromette, mostra una via, mostra una possibilità, spiana la strada verso questa passione, la trasmette ai figli, non solo a Nino, ma anche al figlio minore Dario, che diventerà pugile, anche se non ai livelli di Nino Benvenuti. Ascoltate il racconto degli esordi. Nino poteva avere 10 anni. A pochi passi da casa mia aprirono una palestra e io mi ci infilai. Pensate però che prima di quella palestra già avevo incominciato con il mio sport a casa, nella cantina, sotto la villetta dove ero nato. C'erano 3 colonne. Io in queste 3 colonne feci passare una corda che diventò un ring, non un quadrato ma un triangolo, ma serviva. Tanto non avevo mai visto un ring vero fino ad allora. Ed appesi un sacco di juta pieno di gran turco. Doveva essere il sacco per picchiare. Non avevo i guantoni. Non sapevo nemmeno come fossero fatti, perché non li avevo mai visti. Allora inventai un paio di calzettoni pieni di stracci e con quelli iniziai a picchiare il sacco. E qui la famiglia Benvenuti è ancora a Isola d'Istria e lui combatte il primo incontro a 13 anni e non si ferma più, la sua ascesa è incessante. Vince dei tornei regionali e poi arriva il trasferimento a Trieste con i terribili avvenimenti che colpiscono l'Italia, quella zona e anche la famiglia di Benvenuti. E lui si scopre ancora più combattivo, va in palestra a Trieste, si racconta che abbia chiesto l'autografo a Tiberio Mitri, che era, come dire, il mito pugilistico di Trieste e di tutta l'Italia. Non c'è più solo la passione che gli ha trasmesso il padre, c'è anche la fortuna di avere un fisico perfetto e vi assicuro, io l'ho incontrato recentemente, è un fisico perfetto tuttora, 1,81 m, 65 kg di muscoli, la voglia di rivincita, di rivalsa, il desiderio di riscatto di tutto un popolo. Tutto questo è il grande motore che spingerà Nino Benvenuti e il colpo d'ala è qua nella sua volontà di dimostrarsi più forte della storia, più determinato dei soprusi e delle sopraffazioni subite. La sua rivincita se la guadagnerà sul ring e la sua fama parlerà per lui. Con una spinta del genere i risultati non tardano ad arrivare. Nino Benvenuti arriva in nazionale imbattuto, è il 1955, lui ha 17 anni. Nel 56, durante una delle tante tournée della nazionale italiana in giro per l'Europa, perde un match in un incontro in Turchia. Ce lo ricordiamo proprio perché intanto molti sostengono che era un match che lui meritava di vincere, ma ce lo ricordiamo perché rimarrà l'unica sconfitta da dilettante a fronte di 120 vittorie. Lui quella sconfitta farà molta fatica a digerirla. E in quello stesso anno ha un'altra brutta batosta, perché la nazionale lo scarta come partecipante ai giochi di Melbourne. Lui lo sognava da anni. E poi c'è un'altra discesa molto dolorosa, è l'avvenimento più triste, la morte della madre. Per lui è un dolore devastante. Mia madre, a fronte di questo tormento, di questi 7 mesi di carcere di mio fratello Eliano, a 46 anni, morì, come si diceva allora, di crepacuore, a fronte di una operazione cardiaca che non ebbe successo perché ormai le cose stavano troppo male. La morte della madre fa riaffiorare fatti accaduti 9 anni prima, ma non dimenticati: la sofferenza per il figlio arrestato, tenuto chissà dove per 7 mesi, l'abbandono della casa, di tutte le proprie cose, gli affetti. Insomma, tutto questo mina sicuramente la salute della donna, il suo cuore cede per Nino. È la più brutta delle sconfitte. San tutti lì accanto a lei, da quando un grido li avvertì, sta per morire la mamma. L'anno dopo, il 57, è per Benvenuti l'anno della riscossa, l'anno in cui la sua stoffa da campione viene fuori prepotentemente. Agli europei di Praga il 19enne istriano conquista l'oro, 2 anni dopo ripete il successo a Lucerna. E a questo punto il suo obiettivo più grande, quello che lui aveva inseguito, il sogno cullato fin da bambino, si trasforma in una realtà, perché Benvenuti partecipa all'Olimpiade Perfetta, così viene definita l'Olimpiade di Roma del 1960. Gareggia nei pesi welter e vince a uno i 4 incontri previsti per arrivare primo. L'oro è suo. Il combattimento è stato vinto da Benvenuti, un'altra medaglia d'oro viene a premiare questa magnifica squadra di pugili azzurri. Ecco, la vittoria dell'oro di Roma significò tutto il sacrificio che avevo avuto, fatto, subito e praticato negli anni ancora a Isola da ragazzino a 13 anni, che mi fortificarono, mi resero così preparato alla sofferenza della vita, che la sofferenza del ring mi riusciva molto più facile e non la subivo. Grazie a questi dolori, a queste sofferenze, sono riuscito a superare quelle del ring e stringere i denti, perché molte volte avrei potuto smettere sul ring stesso da combattimento, invece sono riuscito ad avere la meglio sul mio avversario che magari si trovava nelle mie stesse condizioni, ma non con la volontà di proseguire come avevo io. Benvenuti vince l'oro alle Olimpiadi di Roma e conquista anche la prestigiosa Coppa Val Barker. Era una coppa che veniva assegnata da dei giudici molto competenti al pugile tecnicamente migliore dell'Olimpiade. Bene, questa coppa va a lui e non a un altro che aveva vinto l'oro in quelle Olimpiadi, un certo Cassius Clay. Benvenuti è l'unico italiano che ha vinto questa coppa, assieme a Patrizio Oliva, che se l'era aggiudicata nell'80 alle Olimpiadi di Mosca. Insomma, il sogno è diventato realtà, è una vittoria che trasforma per sempre la vita di Nino Benvenuti, tanto che nel 61 decide di lasciare il mondo del dilettantismo, di passare al pugilato professionistico. E vedremo come prosegue l'epopea di questo campione straordinario. Per costruire un uomo e tutto quello che c'è in lui. Ecco cosa racconta la sua prima moglie Giuliana, intervistata da un giovanissimo Gianni Minà. È veramente un bravo ragazzo. Un ragazzo molto serio nel suo allenamento, un ragazzo molto serio come padre di famiglia e come marito. Quindi, cosa vuole di più? Qualcuno ha detto che lui si prende troppe divagazioni dalla box. No, guardi, mio marito non si è mai preso delle divagazioni. Mio marito ha fatto del lavoro e io penso che su 365 giorni di allenamento, 7 giorni non siano mica molti di vacanza. Qual è la più grande dote di Nino? La più grande dote di Nino è la sua intelligenza e la sua sincerità. Benvenuti conosce la moglie Giuliana nel 57, si sposano nel 61 e avranno ben 5 figli, 4 naturali e una bambina adottata. Poi nel 67 però lui conosce quella che diventerà la sua seconda moglie, Nadine, dalla quale avrà un'altra figlia. Insomma, benvenuti, arriva alla ragguardevole quota di 6 figli e tra l'altro lui è tuttora sposato con Nadine. Insomma, il 61 è un anno importante per Benvenuti, che si sposa e decide di passare al pugilato professionistico. Tra il 61 e il 63 combatte 29 volte, uscendo sempre vittorioso dal ring. Al 30° incontro affronta Tommaso Truppi, il titolo italiano dei pesi medi è in palio, conquista il suo primo alloro da pugile professionista, KO alla 11esima ripresa. A questo punto, col titolo italiano in tasca, Benvenuti inizia a scalare le classifiche battendo ex campioni europei, sfidanti mondiali come un micidiale messicano che si chiamava Gaspar Ortega. Ma arriviamo al 64, è il periodo d'oro del pugilato italiano e questo anche grazie alla grande rivalità, un po' vera, un po' montata arte dalla stampa sportiva, tra lui, Nino Benvenuti, e un altro grande campione, un toscano agguerrito, già detentore del titolo mondiale dei super welter, un'altra leggenda del pugilato, Sandro Mazzinghi. Benvenuti e Mazzinghi diventano un po' come coppie Bartali, dividono l'Italia. Chi fa il tifo per l'uno non ti ferbe mai per l'altro. Il toscano e l'istriano si sfidano prima sulle pagine dei rotocalchi, vengono accentuate le diversità stilistiche tra i due e infine arriva il match della storia. E per farvi capire quanto era popolare il pugilato in quegli anni, il 18 giugno 65 Benvenuti e Mazzinghi si affrontano dove? Allo stadio di San Siro a Milano. Non c'erano i maxi schermi, c'era un ring messo diciamo attorno al centro di, al cerchio di centrocampo e attorno la gente. Un incontro importantissimo per tutti, per tutta la città di Milano che ne respirava veramente il peso e loro si prestano anche al gioco montato dagli organizzatori che faceva leva sulla loro rivalità. Ascoltate le loro dichiarazioni prima dell'incontro. Quanto è importante questo combattimento? Sono qui per essere vincitore. Anche tu penserai la stessa cosa. Ma io vincerò. Il tuo titolo mi sta molto a cuore e sarà mio. Nino, avrai di fronte un avversario forte, anzi fortissimo. Il combattimento sarà duro, durissimo, spero per te. Sarà meraviglioso se te farai l'uomo leale. Io mi sono preparato benissimo, anzi vedrai che avversario avrai davanti. Hai sempre un campione del mondo, ricordalo. A San Siro c'è il tutto esaurito, 40.000 persone, nessuno vuole perdere l'incontro dell'anno, non c'è un favorito. I due pugili sono fortissimi, motivati, hanno la stessa età, però a prevalere è Nino Benvenuti, con un micidiale montante destro che mette al tappeto Mazzinghi alla 6ª ripresa. Lui non riesce più a rialzarsi, perde l'incontro e il titolo mondiale per KO. In quei tempi ci sono dei codici d'onore che valgono anche di più dei contratti e quindi c'è una rivincita obbligatoria, si svolge al Palazzo dello Sport di Roma 17 dicembre e ancora una volta l'istriano prevale sul toscano, questa volta ai punti. Nel 65 Benvenuti detiene diversi titoli perché gareggia nei welter, nei super welter e nei medi, riesce a cambiare peso e rientrare nei parametri delle varie categorie. È campione italiano e europeo dei medi ed è mondiale dei super welter. A questo punto, dopo alcuni match controversi, in particolare quello con un sudcoreano Ki So Kim che gli strappa il titolo di super welter, decide, si concentrerà unicamente sulla categoria dei medi al limite dei 72,5 kg. Qui le cose si fanno veramente serie perché il campione da sfidare è il detentore del titolo mondiale dei medi, è uno dei pugili più forti e determinati della storia della box, è stato riconosciuto anche recentemente come uno tra i più grandi pugili di tutti i tempi, Fighter of the Year nel 64, è un palmarès da fare paura. Stiamo parlando di un originario delle isole Vergini americane, un caraibico nero e imbattibile, si chiama Emil Griffith. Ma Benvenuti non lo teme, lo sfida. Nel 67 parte col suo manager, va negli Stati Uniti, tana del campione, prende accordi con il comitato del Madison Square Garden e rilascia alla stampa delle dichiarazioni quantomeno discutibili, perché dice che lui è il numero uno della vecchia e gloriosa Europa, si considera un campione da non prendere sotto gamba e dice che è sicuro di battere Griffith. Diciamo che è una maniera tipica dei pugili di aggredire l'avversario anche verbalmente. Benvenuti è nella sua forma migliore, l'entrata nella categoria dei medi, quindi la salita di qualche chilo, ha fatto sì che lui potesse mettere su un po' di massa muscolare, però non è il favorito tra i due, soltanto il mitico Marcel Cerdan, di cui abbiamo parlato fino a quel momento, è riuscito a passare negli Stati Uniti venendo dall'Europa e conquistare la corona mondiale. Insomma, senza dubbio, il favorito è Emil Griffith. L'incontro viene fissato per il 17 aprile del 67, è una data storica. Dall'Italia vengono organizzati 6 voli charter per i tifosi di Nino, e quelli non erano tempi da trasferte sportive. L'incontro viene trasmesso in diretta per radio e viene seguito di notte da 18 milioni di ascoltatori, tra i quali il sottoscritto bambino. È un incontro pazzesco, entrambi i pugili vanno al tappeto, alla fine delle riprese il risultato è chiaro per tutti i giudici. Ascoltate. Qualche scorrettezza e l'ultimo colpo di gong. Attenzione il verdetto. Judge Leo Brainbaum and referee Mark Hahn both score it 10-5 in favor of Benvenuti. 10-5 per Benvenuti. Nino Benvenuti is the new middleweight champion. E Benvenuti è il primo pugile italiano a conquistare un titolo mondiale sul ring del Madison Square Garden. 9-6 for Benvenuti, the winner. And Nino Benvenuti, campione del mondo dei pesi medi. È un risultato strabiliante, lo trasforma veramente in un eroe nazionale, è il primo italiano a conquistare un alloro di questo genere, è un alloro però sul quale non può sedersi, perché bisogna concedere la rivincita. E il secondo incontro è per il 29 settembre a New York, allo Shea Stadium Queens, e questa volta Benvenuti è il super favorito, ma la fortuna gira, perché al secondo round Griffith gli sferra un colpo al tronco che gli rompe una costola. Benvenuti capisce che l'incontro è compromesso, però decide di uscire a testa alta, vuole perdersi mai i punti, lotta non solamente contro l'avversario ma contro se stesso per non cedere alla terribile sofferenza. Chi si è rotto una costola sa cosa vuol dire, qual è la sofferenza, immaginate avere una costola rotta e fare a botte con Emil Griffith. Both judges, Joe Eppi and Johnny Dren, they both have it the same way. 9-5, one even for Griffith. Griffith is the winner. Referee. Griffith is the winner. The middleweight champion of the world, Emil Griffith. Well, there you have it. Emil Griffith regains the middleweight championship and continues his undefeated gain as a challenger. Un incontro a testa, questo risultato prevede per il codice d'onore del pugilato di quei tempi che sia necessaria una bella, la sfida finale per decretare il vincitore assoluto. Il match che conclude quella che passerà alla storia come la trilogia di Griffith si svolge nel 68 nuovamente al Madison Square Garden, e il destino di questi tre match è che il favorito vada a perdere questa volta. Il favorito è Griffith, però i due pugili dimostrano di essere entrambi dei grandissimi campioni, si equivalgono fino all'undicesima ripresa, quando Benvenuti inizia a avere la meglio. Ancora il montante che fa piegare le ginocchia a Griffith. Bellissima questa azione di Benvenuti, che ha dato un saggio di grande talento pugilistico. Su azione di Griffith si è spostato su un lato ed è ripartito con il montante. Ora un gancio sinistro. Benvenuti sta battendo Griffith sul piano della violenza pura. E la voce del grandissimo Rosi, il telecronista del pugilato di quei tempi, sottolinea il momento in cui Benvenuti atterra Griffith. Griffith si rialza perché è un altro duro come Benvenuti, però alla fine il verdetto ai punti è favorevole a Nino. Il titolo mondiale torna in Italia e negli anni successivi Benvenuti viene sfidato diverse volte, compie imprese storiche come il mitico incontro con Luis Manuel Rodriguez e il pugile cubano soprannominato El Feo, il Brutto. Benvenuti lo atterra con un gancio sinistro e mette fine a un combattimento che in quel momento lo vedeva in svantaggio, o come gli incontri con un pugile australiano terribile che si chiamava Tom Bethia, insomma continui colpi d'ala da parte del campione che, assecondando il suo spirito di fair play, nel 70 accetta una sfida destinata a cambiare la sua vita, perché in Argentina c'è un pugile che si sta segnalando come astro nascente dei pesi medi, un atleta straordinario, gli abbiamo dedicato una puntata, un atleta dalla vita molto più controversa e sfortunata rispetto a quella limpida di Nino Benvenuti. Comunque, l'astro nascente del pugilato mondiale si chiama Carlos Monzón. E lo stesso Benvenuti lo definisce un oggetto misterioso. Allora non c'era la possibilità di vedere troppe immagini degli avversari, però diventa lo sfidante più forte e lui accetta. L'incontro viene organizzato al Palazzo dello Sport di Roma 11 luglio del 70, ma fin dalle prime battute si intuisce che l'argentino è superiore a Benvenuti. Monzón aveva dichiarato: da quel ring scenderò o vincitore o morto, e la sua determinazione ha la meglio sul campione italiano. Già nettamente in difficoltà, Benvenuti è stato inseguito, si è rifugiato all'angolo, eccolo, vediamo. Ed ora raggiunto in pieno, fulminato da un destro alla mascella. Si è inginocchiato all'angolo ed ecco l'immagine angosciosa del campione battuto. Purtroppo, come avevamo già detto, il dramma di Benvenuti era maturato sin dalle prime riprese. Era maturato in virtù non già delle sue lacune, ma dell'estrema decisione, della determinatezza di Carlos Monzón. E come sottolinea un altro grande Paolo Fraiese, il campione viene battuto dall'argentino con il volto da indio. Come con Griffith 3 anni prima, c'è la rivincita. Questa volta va a vantaggio di Benvenuti. Si va allo stadio Luis II a Monte Carlo l'8 aprile del 71. E questa volta l'incontro però durerà ancora meno. Dopo 3 riprese la superiorità di Monzón è talmente evidente che il manager storico di Benvenuti, Bruno Amaduzzi, interrompe l'incontro gettando la spugna. La reazione di Benvenuti è incontenibile. Benvenuti is going out of his mind. This fight has been stopped. It's been called a victory for Monzón. Awesome McCanty, the American referee, is standing next to me. He says, I don't know what's going on. I don't know what's happened. I don't think anybody in here knows what's happened. Benvenuti is going wild. The referee, Victor Avendano, is holding up Carlos Monzón's hand aloft. Apparently a towel was thrown from Benvenuti's corner. by Bruno Amadusi. Benvenuti, is going wild, dice il commentatore. È diventato una bestia, la sua rabbia è senza freni. Lui stesso racconterà che per alcuni minuti ha odiato Amadusi con tutte le sue forze. Ma Amadusi dirà in televisione una frase che tutti quelli che l'hanno vista, me compreso, ricordano. Dovevo scegliere tra l'uomo e il pugile, ho scelto l'uomo. Questa sconfitta segna la fine della straordinaria carriera di Nino Benvenuti, un pugile eccezionale, un grande uomo che inizia una nuova vita. La vita precedente, quella di sport, doveva finire e doveva iniziare un'altra, quella di uomo di tutti i giorni, con un bagaglio di grandi esperienze sportive, ma nessuno di esperienza di vita. E lì inizia una vita diversa, una vita piena di difficoltà anche, ma una vita che non si confonde con quella precedente, una vita completamente diversa, quella vita che sto ancora vivendo adesso. Il più della mia vita lo devo ancora vivere, il match più importante lo devo ancora combattere. Benvenuti nella sua incredibile carriera, ha collezionato 90 incontri, 82 vittorie, un pareggio, 7 sconfitte. Poi fa l'attore in alcuni film, scrive delle biografie, diventa un uomo politico, ma soprattutto diventa commentatore sportivo di eventi pugilistici e lo fa tuttora. Ma il grande uomo è quello che dimostra una grande amicizia per i suoi avversari, specialmente per Emil Griffith. Prende le sue difese quando il pugile nero si dichiara omosessuale e poi lo segue durante la terribile malattia di Griffith, lo assiste e lo accompagna fino all'ultimo. È vicino anche a Carlos Monzon, che è finito in carcere per l'omicidio della sua terza moglie, e lui lo va a trovare. Insomma, non è solo un grande campione Benvenuti, è una persona dalle immense doti di umanità, di onestà e di fair play. Una persona che ha saputo dare più di una volta il colpo d'ala nello sport, ma soprattutto nella vita. È caduto ed è risalito, riscattando se stesso e il martoriato popolo istriano. Ciascuno di noi nella sua vita può rischiare di cadere, ma può anche dare un colpo d'ala che lo porta a volare in alto. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it. ricordate che potete riascoltare o ascoltare le puntate sul podcast e che mi trovate sul mio Facebook, Twitter o sui nostri social. Insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.